piace quando mi sfaso, quando accuso lo stremarmi del mio vivere a naso, che ti annuncio questi marmi neri e torno rinato. Sto scannato, che la droga nel mio stato te la carichi a vagoni oppure a un prezzo malato, che giravo in carrera se non avevo iniziato. Quanta gente mi ritiene spacciato, ha dato solo 3 esami per diventare avvocato. Coltivo paranoia anche se sto rilassato, non mi metto seduto se posso stare sbracato. Bevo tutto fino a quando non mi sono stancato, e se torno a casa presto è perché ho già vomitato. Vivo a caso, e forse non è proprio un caso, in questa vita dove è vano io non mi caso, e fai salita su salita, stai scalando per niente, che tra 120 anni ci sarà tutta altra gente. E allora getto la lenza, non voglio affogare con gli altri in questa demenza, mi voglio sfondare con tutto ciò che fa benza, e divertirmi nel vederli sgomitare, scogitare, li a studiare col capochino per delle ore, e buttare 30 anni e tutto il proprio valore per rinchiudere qualsiasi ambizione a chiave in uno squallido armadietto da professore. Andiamo a fare quel che cazzo ci pare, le stronzate di Sessua non le vedrai ritornare. Continuo a ballare, segui il flow naturale, ho fatto il bravo 20 anni e mo mi sento scoppiare le vene. Portami lo stesso di prima, però stavolta fatto per bene. Voglio chiudere la serata curvo su un marciapiede, voglio brindare ogni stronzo che si fa solo un bicchiere. Avevo chiesto da bere. Vivo a caso, e forse non è proprio un caso, in questa vita dove tutto è vano io non mi caso, e fai salire.